Io che a Genova nel 2001 avevo 21 anni. Io che a Genova ne avevo 36. Io a Genova avevo 64 anni. Io che a Genova ne avevo 28. Io che a Genova ne avevo 19. Io che a Genova ne avevo 52. Io che a Genova ne avevo 36. Io che a Genova ne avevo 23. Io a Genova ne avevo 25. Io a Genova ne avevo 41. Io che a Genova non c'ero. Mi sono successe politicamente negli anni 90. A tutto portavano tranne che a Genova. L'idea di stare in piazza in una manifestazione tradizionale con l'obiettivo di andare a contestare un potere addirittura localizzato in 8 persone era la cosa più lontana possibile da noi. Poi invece ci siamo ritrovati tutti là. Parlo del collettivo politico di sociologia, che era separato dal collettivo comunista di sociologia, che invece erano di Rifondazione. La metafora della rete, l'idea della rete, noi l'avevamo proprio masticata e rimasticata, ci stavamo completamente dentro. Siamo stati probabilmente i primi alla Sapienza a chiedere un indirizzo email al dipartimento. Stavamo tutti in fissa per il cyberpunk, leggevamo Deriva Prodi, allora era una rivista, leggevamo Deleuze, Gattari, Hakim Bey, leggevamo i Critical Art Ensemble, naturalmente c'era Sesso Estremo del reverendo Cooper, forse è quello che ha venduto di più. Leggevamo articoli su Deriva Prodi che parlavano di impresa politica autonoma, che era esattamente l'opposto di prendersela contro i centri sociali perché rischiavano di diventare dei locali. Era invece, facciamo un'impresa politica autonoma, facciamola, facciamo i soldi, ma in modo autonomo. Teorizzavamo i rave e le street parade come modo di stare in piazza. Partendo dalla lettura di Taz, dicevamo, non c'è un potere da prendere e non dobbiamo fare una rivoluzione. Hakim Bey, con questo suo libro, affermava proprio la necessità di smettere di pensare alla rivoluzione. Bisognava fare delle zone temporaneamente autonome. Bifo pubblicò il libro Come ti cura il nazi e lo presentò proprio da noi a sociologia. Poi scrisse Mutazione Cyberpunk, uno dei primi libri che leggemmo. Almeno è il primo che lessi. Tramite quello sono arrivato a Baudrillard. Quello che è successo politicamente tra il 1998 e il 2000 non me lo ricordo. Ho proprio un vuoto, c'è stato una specie di vuoto e quello spazio vuoto è stato riempito. Deriva Prodi ha smesso di pubblicare, Luther Blissett ha fatto il seppuku. Dentro questo vuoto ritornò la rivoluzione, che poi non era proprio la rivoluzione. Il tema che la rivoluzione non andava fatta e che il potere non esiste più è un tema che già nel 77 era presente. Il potere non è più un luogo, non è più un posto in un posto, il potere è diffuso nella rete. Secondo me prefigurava cose che in seguito sono state scritte dalla sociologia. 21 mattina, mi hanno arrestato, sono finito a Bolzaneto. Quando è arrivata la notizia della morte di Carlo, stavamo al camping a Re di Puglia dove c'erano i Cobas e tante altre realtà. Mi ricordo che non si sapeva quanti fossero i morti, si pensava che il ragazzo morto fosse spagnolo. Ricordo l'assemblea totalmente delirante, sia la sera che la mattina. C'era qualcuno che provava a trovare la calma, c'era gente che invece voleva andare in piazza a fare la guerra, proprio per farla la guerra. Durante il corteo ero andato alla testa per capire dove stavamo andando, ma in realtà lì nessuno tra noi sapeva dove stavamo andando. Levati il casco, rimettiti il casco, che poi era luglio, faceva un caldo estremo, con quelle maschere antigas non si poteva respirare. Io non ero assolutamente inconsapevole di quello che sarebbe avvenuto a Genova. Ricordo i giornali, addirittura Arbasino aveva detto a Genova almeno un morto. Ricordo mia madre che aveva sentito su un treno dei poliziotti parlare dicendo a Genova possiamo fare quello che ci pare. C'era stato Göteborg, c'era stato Napoli, era più o meno tutto. Il livello di scontro era alto, altissimo. Al campeggio la gente era partita quasi tutta, eravamo rimasti una trentina. Vennero con queste camionette della polizia. Io avevo deciso di non andare alla manifestazione, mi ero messo lì vicino a una signora che aveva la febbre. Avevo comprato tutti i giornali, tutti, anche Libero, per fare la rassegna stampa. Non conoscevo nessuno, ci mettono in fila, scelgono a caso, una decina su 30 persone, e poi ci portano a Bolzaneto. Vennero perché dicevano che c'erano camion che avevano distribuito mazze. Certo che quando sono venuti lì eravamo messi male, malissimo, una banda stralunata, addirittura la tizia con la febbre. Ero totalmente tranquillo, sulla camionetta ho visto che un poliziotto aveva una boccetta d'acqua, gli ho detto, senti, fammene bere un sorso, c'ho sete, lui mi ha detto, tranquillo, tranquillo, questa me la tengo per me. Al Bolzaneto ricordo anche un carabiniere. Questo carabiniere era proprio schifato, avrà avuto una ventina d'anni e si vedeva che voleva essere ovunque tranne che lì. Ovunque tranne che lì. Eravamo costretti a rimanere in piedi con le mani al muro. Stavo in un gruppo dove c'era un tipo in ciabatte, uno era disabile e non poteva stare in piedi, eppure ce lo facevano stare ugualmente. Mi ricordo lo sguardo di quel carabiniere giovane di cui prima, non voleva stare lì. Sono quelle cose che uno ricorda e si porta dentro per salvarsi la memoria. Da mangiare non ce ne hanno dato, ti chiamavano in bagno e ti menavano. Ti chiamavano in bagno ma era tutta una scusa, tutta una scusa. Allora chi vuole andare in bagno, ti dicevano con quella voce, la mandavano in maschera quella voce. Questi li abbiamo presi alla scuola, uno disse. Ricordo che quando è arrivato il ministro ci hanno spostato nelle celle, era arrivato il ministro. Bisognava fare un sopralluogo, detto il ministro. Quindi ci hanno spostato per ministro. La cosa che non scorderò mai è che sono riusciti a menare il disabile. Una cosa che è ingestibile nella memoria, ingestibile. Questo è del gruppo operativo. Erano le squadrette di pestaggio del carcere. Ad un certo punto uno ha detto non ce la faccio e l'hanno massacrato. Quando mi portarono in carcere ad Alessandria entrai completamente curvo a L. Perché a Bolzaneto ci dicevano non ci devi guardare in faccia. Poi però siamo andati in carcere e un poliziotto mi fa ma che cazzo fai? Guardami in faccia. C'erano dei secondini anche gioviali, gentili. Mi hanno chiesto di dove ero, gli ho risposto di Roma. Ah, di Roma, bene. Avete vinto lo scudetto, Battistuta, Del Vecchio, Montella, te la sei vista, la Ferilli, nuda, il Circo Massimo, bene. Ero praticamente capitato in Alice nel Paese delle Meraviglie. Diaz, Bolzaneto, sono stati un abisso. Ma la domanda che mi sono fatto è, io ho avuto la fortuna, chiamiamola fortuna, di non entrare mai più in carcere. Ma che succede veramente? Nel 91, guerra del Golfo, è la prima manifestazione a cui sono andato senza i miei. Era a scuola San Lorenzo, al Gaio Lucilio. Nel 94 abbiamo fatto un'occupazione. Nel 96 mi iscrivo a Rifondazione. Un'esperienza interessante. Dopo un annetto esco e passo direttamente al Forte Prenestino. E questo in realtà avviene con i treni occupati per Amsterdam. La manifestazione ad Amsterdam coinvolgeva tanta gente per tanti motivi. A Milano, grande baraonda generale, mi muovevo con una specie di gruppo dirigente della situazione che era composta da gente di Rifondazione e centri sociali. Non mi ricordo com'è andata la storia, ma mi ricordo di aver passato varie ore lì a Milano, cordoni, cose, polizia, e poi saliamo su questi due treni, inseppati di gente, tanto che sono andato a dormire nel vano bagagli. Era uscito il librettino di Marcos, la quarta guerra mondiale è cominciata, e sul treno lo distribuivano. Era oggetto di grande dibattito. Ad Amsterdam un vagone venne bloccato dalla polizia e tutta la gente dentro presa e portata in carcere. Mi ricordo sia i poliziotti sia gli autonomi olandesi o tedeschi, alti 2 metri. E poi lì scoprimo anche una certa differenza tra la polizia olandese normale e i corpi speciali, che erano più brutti. Pare da racconti di alcune persone che i poliziotti olandesi normali sono andati a comprare il fumo a quelli che stavano dentro il vagone. Mi ricordo la sera di Militantà, che parla di Amsterdam e dice panico, la prima manifestazione del futuro, collego fatta apposta, e comincio a frequentare il Forte e col Forte vado al secondo incontro zapatista in Spagna. C'erano mi pare 600 italiani su 2000 partecipanti e scazzavano tra di loro per le situazioni italiane e la tematica zapatista è andata un po' a farsi friggere. Alla fine ci siamo riuniti tutti in Andalusia, in una comune agricola, in un posto sperduto con 42 gradi, tutti ignudi nel fiume. E praticamente ecco una delle cose che mi ricordo è questa zapatista che a un certo punto si incazza e dice «Ah stronzi, noi facciamo le cose sul serio e voi qua state scazzando sulle stronzate, siete dei ragazzini!» Delle cose meritatissime. Io ho fatto il 68 e poi ho lavorato. Non ho militato di fatto. Ho militato nel lavoro, nel senso che non ho mai pensato di aver smesso di fare politica. A Genova sono andate figlie e marito. Ero anche contenta perché era una ripresa del movimento con modalità diverse con quello che stava succedendo in America Latina. Insomma, era un momento bello, difficile certamente, però bello. E la cosa che mi faceva piacere era che queste tre persone che andavano a Genova ci andavano ognuno per cavoli propri, con esperienze diverse. C'era la piccola, che era la prima cosa grossa, e l'altra ci andava per carta, un giornale di movimento, e in più era disobbediente. E c'era mio marito, di Rifondazione, molto attento ai movimenti. Quindi pensavo, sto al lavoro, ma al mondo, gli mando questi tre siluri, vedete che potete fare. Ero preoccupata? Eh beh sì, certo che ero preoccupata. C'era stata Napoli e io pensavo, a Napoli è successo il casino, a Genova non possono permettersi un altro casino, no? C'erano voci, ma io in fondo non ci credevo. Neanche quando arrivò la notizia della morte di questo ragazzo che non si sapeva chi fosse, che hanno detto che era un black bloc che stava lì ad aggredire, andai a casa e mi piazzai di fronte al televisore e mi prese un colpo perché vidi le dichiarazioni su Rai 3, mi pare, di Berlusconi affiancato da Ciampi, il presidente. E quella scena mi fece capire che è successo qualcosa di definitivo. La nostra esperienza, purtroppo, era piena di gente che era morta nelle manifestazioni, ma quelli poi si vergognavano. Quella sera, guardando quella cosa, capì che c'era un cambio di regia e di strategia. Ah, io non provavo rabbia verso il Black Bloc, contro chi aveva scelto quel tipo di manifestazione, anzi, ero partito quel sabato per Genova con 5 bastoni. Erano 5 bandiere, però in realtà erano 5 bastoni. Mascherine un po' più resistenti, con filtri a carbone, ma non ci avresti fatto niente, ti saresti anzi intossicato più che a respirare. Eravamo preparati a un livello di scontro alto, altissimo. C'era stata Göteborg, c'era stata Napoli, la violenza si sentiva, si sapeva. Ho scelto di essere a difesa dei compagni più giovani, anche minorenni. La mattina del sabato parto, da solo, con la macchina. Non ricordo nemmeno come ho saputo della morte di Carlo, però ricordo perfettamente che ho passato la notte in bianco a vedere immagini, a sentire i compagni che erano lì, lì, al Carlini. Arrivo a Genova, l'impressione che ho è di una città deserta. Avevo detto, adesso dovrò stare attento, ci saranno i controlli, sarà blindata. Invece zero. Arrivo, non vedo neanche un poliziotto. Stavo nel servizio d'ordine pacifico, a difesa dello spezzone. Ero incazzato, incazzato a morte, incazzato nero, ero lì con la rabbia per un ragazzo morto. Una delle cose che ho fatto, e che non avevo il piacere di fare, è stato intimare a un ragazzo di togliersi il passamontagna. Dentro lo spezzone, con tutti a volto scoperto, gli ho chiesto, senti, fammi il favore, levatelo. Mi ha risposto, fatti i cazzi tuoi. Strafottente. Allora tutta la tensione si è montata. Mi sono avvicinato per dirglielo a brutto muso. Ci siamo trovati con il corteo spezzato. Tipo 5 minuti prima avevamo infilato un uomo con la sedia a rotelle dentro un portone perché si stava già spezzando il cordone. Ricordo una signora del piano di sopra che ci buttava l'acqua, ci davano da mangiare, i genovesi che c'erano lì presenti in città, me li ricordo, erano tutti con noi, con le mutandine al balcone, tutti dalla nostra parte. La signora era spaventata. Ma cosa state facendo? Correte, scappate, ci faceva, era spaventata, era terrorizzata. Io non so quanti fossero. Non ho mai visto tante camionette come in quel punto. Come se a un certo punto fossero spuntate fuori dalla nebbia dei lacrimogeni. Un gruppo un po' organizzato, che forse non era neanche giusto chiamare Black Bloc, parte, a ventaglio, si ritira, la polizia invece carica il corteo, tutti scappano, noi allora ci incordoniamo, ci guardiamo come per dire amico, è stato bello conoscerti, è la fine. Non c'era spazio per andare da nessun'altra parte, 2 o 3 sedie a rotelle, un ragazzo incinta, un'altra con la bambina sulle spalle, io non so cosa stesse succedendo, non ho sentito, so che mi dovevo mettere tra la polizia e altre persone che forse le avrebbero prese, peggio di me. Ricordo l'altra carica di lacrimogene, a un certo punto non ho più retto, ho cominciato a vomitare. Arretravo tirando sulle persone al lato della strada, non lo dimenticherò mai. Tutte queste persone di tutte le nazionalità. E io, avanti, su, stand up, tirati su, non sapevo neanche più che lingua stavo parlando. Quando era tutto finito, vedevamo più giù delle camionette della polizia che sembrava facessero festa. Della Diaz abbiamo cominciato a sapere durante il viaggio di ritorno, in macchina. C'era la voce di un cronista, non so chi, diceva, stanno arrivando, eccoli. Era una voce impaurita, spaventata. Era un giornalista. Stava vedendo dall'alto la carica, quello che stava succedendo. Poco dopo la polizia è arrivata anche da lui. Il ritorno. Al ritorno ho pianto. Sono rimasto con la testa tra le mani, a rimuginare. Perché l'ho avvertita subito, questa sensazione che si respirava lì. Che da lì in poi sarebbe cambiato tutto, qualunque cosa. E infatti nei 3 anni successivi, tutti quanti, ci siamo persi. L'ho raccontato. Ecco, sono libero, adesso. Il ricordo è un po' confuso perché sono passati gli anni, di quant'era stata grande quella cosa, delle cose forti che avevamo vissuto. Io me ne sono reso conto, soprattutto nel viaggio di ritorno, della grandezza, della forza, della violenza. Noi partiamo come universitari da Termini, un gruppo molto composito e molto largo. Il treno era sempre questo elemento di festa. Si beveva, si fumava. L'arrivo è di festa. La sera il concerto di Manu Chao, un grandissimo concerto. Come l'assemblea di Reggio, andiamo al Carlini. La notte diluvia in maniera allucinante, fiumi proprio. E passiamo questa notte terribile, al freddo, bagnatissimo. Io stavo praticamente svenendo. Cominciamo il corteo dei migranti, coloratissimo. Si percepiva la tensione, però quel giorno ci fanno addirittura arrivare vicino alla zona rossa. La mattina dopo ci svegliamo presto e cominciamo a prepararci. Come università noi avevamo fatto tutto un percorso, una costruzione di questi strumenti d'autodifesa per la disobbedienza e io avevo un'armatura fantastica. C'era la conferenza stampa in cui comunicano la dismissione delle tute bianche e quindi da tute bianche si passa alla disobbedienza e si parte per via Tolemaide. Sembravamo tanti giocatori di rugby. Ricordo la scena. A destra la ferrovia e a un certo punto ci arrivano sassi da dietro, dei poliziotti, molti in borghese, e cominciano a tirare i sassi al corteo. Ci avvisano che la polizia si sta muovendo verso di noi per rincorrere i black bloc, quindi facciamo la testuggine con gli scudi. Durerà nemmeno 5 minuti perché ci attacca il reparto Tuscania. 30, 40 uomini al massimo contro un corteo di migliaia di persone e proprio ci ribaltano gli scudi, ce li ribaltano, cominciano gli scontri e noi eravamo ragazzetti di 20 anni. Facciamo attenzione a stare dietro a quelli più grandi di Roma. Scene epiche di Tarzan a torso nudo. A un certo punto incominciano ad arrivare le notizie di 3 feriti, morti spagnoli, italiani. Ritorniamo al Carlini e si diffonde la voce che era sospeso il G8, esultanza collettiva. Poi però ci rendiamo immediatamente conto che è una cosa assurda esultare dopo che c'è stato un morto. Nel frattempo, 3 del nostro gruppo non si trovavano. Oh, ma dove stanno? Ma che è successo? Si erano presi i funghi, sono tornati a mezzanotte. E noi con gli occhi di fuori, ma come? In una situazione come Genova ti prendi i funghetti? E non ci hanno nemmeno voluto raccontare tutto. Altra cosa folle. A un certo punto non si mangiava per le file mostruose. E decidiamo in 10 di andare in giro a cercare da mangiare. Fortunatamente non ci ha fermato nessuno. E alla fine da una casa ci tirano giù un cestino con pane e salame. Quindi notte d'agitazione, grosse discussioni con questa questione dei black bloc che erano stati utilizzati, che erano stati lo strumento per cui ci avevano attaccato. Si fomenta tanto questa cosa del nemico black bloc e il giorno dopo in piazza si fa questo cordone del nostro spezzone strettissimo e ogni nero, anche sfigato, porello, vestito di nero che si avvicinava, veniva scrociato. E va avanti questa cosa, caricati da quello che era successo, dalla rabbia, dall'incomprensione, dall'incapacità di reggere tutto quanto. Dopodiché situazioni di panico, lacrimogeni dai tetti, dagli elicotteri, non si capisce più niente. Fortunatamente noi usciamo indenni da quella giornata. Io ringrazierò per sempre i compagni più grandi, Nunzio, Tarzan, quelli del corto. Aprivano i finestrini a noi più giovani e ci buttavano tutti dentro al treno. Andate, andate! Il viaggio di ritorno è il momento delle telefonate da Genova, sulla Diaz, su compagni spariti, che non si sapeva più che fine avessero fatto. Mia nonna di 90 anni mi chiama e mi dice, dai, mo avete fatto, torna giù, basta. Vabbè, nonni, torno, non ti preoccupare. E la cosa particolare è che tornati da Genova, nonostante la disinformazione, la gente stava con noi. Quello che mi fa rabbia è che quelli che stavano con noi, adesso danno grillo, sono tutti grillini. Non mi va di raccontare, ma forse non mi andrà mai. Alla Diaz siamo stati su un piano di inumanità. Io non me lo riesco proprio a spiegare, forse non me lo spiegherò mai. Ero alla Diaz, quindi me la sono vissuta proprio tutta. Da 15 anni a questa parte forse il piano delle responsabilità di quello che è successo è stato deviato verso un gruppo di estremisti piuttosto che verso i veri responsabili. Pare che i veri responsabili di quello che è successo a Genova siano i cosiddetti black bloc. Beh, dal mio punto di vista loro sono stati il pretesto per una serie di cose che sono successe. C'erano degli infiltrati, c'erano degli infiltrati della Digos, infiltrati dei Parà a fare i black bloc. D'altra parte siamo su un piano che non è paragonabile. Non è paragonabile se è una persona che stava in piazza in un certo modo, che possiamo anche non condividere, si è sparato in testa e poi ci si è passati sopra con una camionetta. Abbiamo deciso di partire. Eravamo in due, io e un mio amico che aveva pensato bene di vestirsi completamente di nero. Il tedesco si veste di nero. Non so se vi ricordate i famigerati Black Bloc. Bello era alto, biondo, con gli occhi azzurri, somigliava a Kinski, si è vestito di nero. Sabato mattina era successo già, di Carlo Giuliani. Andiamo sul lungomare dove c'erano i convegni e doveva parlare anche padre Alex Zanotelli. Poi ci uniamo al corteo, poi parte il corteo ma da un'altra parte, noi ci uniamo al corteo. Ci avviciniamo alla rete Lilliput col mio amico che era vestito completamente di nero, tutti quanti ci fanno peace, Black Bloc, peace, por favor. Riusciamo a convincerli che non siamo Black Bloc ed entriamo con la rete Lilliput. Si vedevano in lontananza i fumi degli scontri, però incredibile. C'era lo stabilimento aperto, c'era gente in spiaggia che prendeva il sole e faceva il bagno. Comincia il casino totale. Mi ricordo un ragazzo di Lilliput che diceva non vi preoccupate, adesso arriva la polizia. Invece io dicevo esattamente il contrario, preoccupatevi invece che sta arrivando la polizia. Forza, dai, correte, scappate. E c'era un sacco di gente che non scappava. Noi invece siamo scappati. Mi ricordo questa fuga con lo zaino, il sacco a pelo in testa, sembrava un cartone animato. Finiamo in un punto di Genova dove c'era un cocomeraro aperto e i genovesi vecchietti a prendere il cocomero, a parlare del Genova, della Sampdoria, cose così. Ce ne prendiamo una fetta pure noi. 2 ore dopo, questo posto era blindato, c'erano scontri ovunque, le saracinesche giù. La cosa bella di Genova era che coinvolgeva un sacco di gente ed era proprio quello che speravo di vedere, di vivere, rispetto alle manifestazioni a cui ero abituato ad andare, cose che poi non ci sono più state. Siamo tornati, siamo arrivati alla stazione Tiburtina e abbiamo trovato tutti ad aspettarci, gli amici, i parenti che si erano telefonati perché avevano saputo della Diaz. Io non è che poi mi sono allontanato dalla politica, per quanto sia stata forte quell'esperienza, anzi, Genova mi ha convinto ancora di più. Io non sono andata a Genova, però ricordo che per me Genova è stato un momento importantissimo. La mia militanza era stata esclusivamente nel Partito Comunista Italiano, quindi quando il PC è diventato come la Democrazia Cristiana mi sono sentito espulso. Poi non ho più trovato una collocazione finché con Seattle non è cominciato questo movimento cosiddetto altermondista, come lo vogliamo chiamare, che per me è stata un po' una rivelazione. Una comunità di diversi, tante persone che però si trovano insieme e che insieme sentivano di aspirare a una stessa cosa. Era un'aria che forse non avevo mai respirato e che comunque non respiravo da tantissimi anni. Per la prima volta mi aveva risvegliato interesse, una passione, e per la prima volta vedevo che si poteva realizzare qualche cosa di concreto e superare tutte queste diversità. Anche la morte di Carlo, secondo me, ha qualcosa di diverso da una morte accidentale avvenuta durante una manifestazione che sta degenerando nella violenza. Io da una parte mi resi conto della violenza dello scontro, dall'altra rimasi sorpreso. Quando si esercita quella violenza sistematica, con la piena consapevolezza di sequestrare degli innocenti, il fatto che lì per 2 giorni sia stata programmata a tavolino quella violenza, quella sospensione di tutti quanti i valori democratici e costituzionali, questo è un salto di qualità. E mentre tutti quanti i leader della cosiddetta sinistra si sfilavano dicendo però hanno trovato una molotov, se questi sono venuti alla Diaz è perché sono stati provocati, hanno fatto bene. Beh, Agnoletto invece fu fermo e disse: tutte le cose che vi stanno dicendo sono menzogne e noi siamo in grado di provarlo. Lì è stata esercitata una violenza cieca e determinata. Erano decenni che io non sentivo un leader della sinistra parlare in questo modo, che difendeva il proprio operato e in qualche modo i suoi. Decenni che di fronte a situazioni del genere i nostri leader dicevano: sì, è vero, effettivamente, però vabbè, vediamo. Sarebbe stato meglio se... cose così. Anche nella disperazione io mi dissi che c'era qualcosa di diverso.